verità. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Io penso esistano dei segnali di imbarbarimento dei nostri tempi e che questi siano segnali del male. Chi crede nella Chiesa cattolica, il male è Satana. Farò l'obiettore di coscienza, molti assessori e consiglieri comunali faranno come me e la cosa succederà anche negli altri comuni. Io voterò questa legge, visto considerato che in futuro potrò votare questa legge, quando il signor Renzi, visto che fa i miracoli, mi farà vedere che da due uomini, da due donne, si riesce ad avere un bambino. Lei pensa che il mio utero abbia un prezzo? Io onestamente non lo penso. Il ritornamento all'attacco, possiamo dire, del maligno, che Satana oggi lavora soprattutto per distruggere le famiglie. Suonano le campane a morto in alcune parrocchie d'Italia, come a Carovilli in provincia di Isernia, dove il parroco ha affisso questo annuncio funebre. Le campane a morto annunciano con dolore che con l'approvazione della legge Cirinnà, votata anche da cattolici, ieri sera sono morti il matrimonio e la famiglia secondo natura tra uomo e donna. Altro, pensavo questo nella mia mente banale delle 6:30, ma guarda un po' te quel furbacchione del Papa. Il giorno in cui Renzi, insomma, ci porta un po' più della civiltà, ci fa fare un passo avanti, 27esimo paese europeo che fa una legge sulle unioni civili, lui che ti fa? Ti sorpassa a sinistra, io faccio le donne prete. Furbacchione! Vabbè, non è proprio così, cioè non è che adesso il Papa ha guardato e quindi ha detto faccio una cosa ancora più rivoluzionaria, adesso non... Sono letture banali delle 6:30 di venerdì 3... Porca miseria, venerdì 13 oggi? È venerdì 13. Dai Milan, che è un colle Venere. Ma... Venerdì 13. Venerdì 13, signori superstiziosi. Milan, è venerdì. Sì, sì. È ora di liberarsi. No, ma no, caro ascoltatore. Non esageriamo. Vabbè, è venerdì. Sì, è venerdì. Sono le 6:33 minuti, devo subito convocare quel satanasso di Vincino. C'è il male, attento. Buongiorno. Vincino, stai attento che c'è il male. Molto amici. Tu e il male. Ah sì, non il male, quello la rivista, il male. Il male, il demonio. Eravamo i suoi agenti. Satana. come lo chiama mia figlia, Satana. Satana, Satana, bellissimo, Satana, Satana. Perché legge Geppo, ho ritrovato i vecchi Geppo, allora lo chiama Satana. Satana, qualche film degli anni 60, qualche spaghetti western, Satana. Sì, sì. Un giorno infatti è arrivata, non ho visto che stava leggendo Geppo, e mi fa: papà, ma chi è Satana? Io ero un attimo, sono rimasto un attimo sorpreso. E vabbè, insomma, comunque c'è il diavolo. Caro Vincino, siamo qui con Carmelo Lauricella in regia, con Lorenzo Nespoli in redazione. Oggi dobbiamo salutare un nuovo ingresso al Parlamento. Sono molto felice perché l'avevamo lasciata quando era parlamentare, e adesso la ritroviamo, Flavia Perina. Buongiorno. Buongiorno, buona mattina. Come sta? Benissimo, nonostante questa notizia scioccante del venerdì 13, alla quale non avevo fatto caso. Venerdì 13, attenzione, gatti neri, scale, attenzione, queste cose qui. Oggi bisogna stare attenti, chiudersi in casa tutti quanti. Non esageriamo. Una buona scusa per non andare a lavorare. Che fa Flavia Perina adesso, ex parlamentare? Giornalista, quello che ho fatto sempre. Certo. Quello che ho fatto sempre, scrivo per l'Huffington, per l'inchiesta, per altre testate. E sono stata sempre una giornalista. Il Parlamento è stata una parentesi. Una parentesi brutta, anche buia, tempestosa. Molto interessante, per molti versi, anche nella fase in cui ci sono stata io, addirittura divertente. Bene. Allora apriamo il Parlamento. Forza, che è venerdì. Ci scrivono che Vincino parla come una ribollita. Ma è buona la ribollita, ma perché? Va bene, iniziamo così. A quest'ora qualunque persona normale parla come una ribollita, sì, esatto. Più o meno. Eccolo là, anche Flavia Perina mi deve subito rimproverare perché abbiamo svegliati alle 6.30. Succede così, vabbè. Saluti, ci salutano da Dresda. Ci saluta un nostro ascoltatore che ci segue da Dresda. In questo momento mi manda anche una foto del fiume Elba. Fammi vedere un po' com'è il fiume Elba. Ah, ci manda un selfie dal fiume Elba, col fiume Elba sotto. Va bene, sono cose che capitano, come si potrebbe dire. Allora, Vincino, ci pensavi tu questo collegamento del Papa che ha voluto superare a sinistra o a destra Renzi? Ma non ce l'ha fatta, perché Renzi le donne cardinale e ministra le aveva già nominate, fa assolutamente. Renzi? Assolutamente sì, la Boschi, la cosa, insomma, non è che è la sua cardinalessa. Le donne cardinale le aveva già fatte proprio tutte le sue, peraltro le vorrà nominare lui le in ogni città, assolutamente. Sì, le vescove, come si chiamerà? Per esempio Flavia Perina, forse la Boldrini adesso farà una campagna a capire, sì, dovremmo chiamarle vescove. Guarda, per come la penso io, meno la politica si impiccia della religione, la religione della politica, meglio stiamo tutti quanti. Quindi suggerirei alla Boldrini di farsi gli affari suoi, e parlando seriamente. Di sicuro la presa di posizione del Papa per molti versi forse è più rivoluzionaria di quella della politica, mentre in politica legge insomma si doveva fare da 30 anni, le donne dialogano, è davvero un passo avanti inaspettato. Non male, ma visto che è stata in Parlamento, ma perché questa storia del effettivamente abbiamo aspettato 30 anni e poi tutte le volte che si tocca questa storia delle unioni civili, le questioni omosessuali, subito... escono delle forze, come dire, di resistenza. Forze oscure. Sataniche, no. In realtà sì, no, un po' più da fumetto, un po' più da Geppo che da Satana vero. La politica è poco coraggiosa, la politica italiana su queste cose è stata sempre poco coraggiosa, ci ha avuto sempre paura di ripercussioni. Uh-huh. E adesso poi si vedrà, perché ora ci sono due test che ci diranno quanto contano queste aree di resistenza alla legge. Uno è la raccolta di firme del referendum, vediamo quante firme arrivano, e l'altra è la candidatura di Adinolfi, del Popolo della Famiglia, qua a Roma, e vediamo che percentuali prende, insomma. Contiamo una dimensione al fenomeno. Il nostro amico Adinolfi, caro Vincino, ma tu lo voti, sicuro? Assolutamente no. Ma guarda che fai ancora in tempo, ce la par condicio, io non tifo per nessuno, si sa, ma insomma, fai ancora in tempo però a votare Adinolfi, non... Poi anche tu scendi a Roma. No, magari c'è una lista a Milano, si presenteranno anche a Milano, forse non lo so. Vabbè, caro Rinocchi ci prova, ci ha già provato a fare i giornali e non gli è riuscito, perché lui è bravo solo a fare poker, non è che diciamolo non, a poker è bravo, potrebbe essere un partito di successo, no, quello ad esempio potrebbe già essere un partito, il partito dell'azzardo potrebbe essere, sì, il partito dell'azzardo, guarda, finanziatori tra le slot machine trova proprio a bizzeffe, assolutamente non Vabbè, però, cioè, caro Vincino, su questa cosa delle unioni civili ti sento un po' spento. Non hai molto esultato in questi giorni, non hai fatto... No, assolutamente. Sono contento. Non... Sì, come sì. Mi riguarda relativamente poco, però perché ho una certa età, come ormai... Vabbè, però guarda, attenzione, dipende sempre dalla prospettiva. Oggi Repubblica racconta, per esempio, che quanto costerà una cerimonia... No, oddio, non posso chiamarla così, adesso mi chiamo Alfano. No, sì, scusate, no, cerimonia non si può dire. Festicciola, diciamo festicciola. Festicciola, qua, bella, mi piace Flavia Perina. Quanto costerà una festicciola a costoro che si vogliono unire civilmente? Dai 6 ai 700 euro, sono soldi freschi per i comuni, Vincino. A Roma potreste farne migliaia, risanate il debito così. Centinaia di migliaia ne dovremmo fare. Tutti a Roma, davanti al Vaticano, così anche come provocazione, una festicciola con bacio. No, ma il bello è farla là al comune, nella piazza del Michelangelo. Io mi sono sposato là con il sindaco di tanti tempo fa. Di secoli fa. No, vabbè. Sì, poi mattina presto e... Però non ti ricordi manco il sindaco. Però Vincino, pensa a questa prospettiva. Soldi per i comuni, festicciole e via. E soldi per i comuni. Siamo tutti contenti. Tutti contenti. Potrebbe essere una buona giornata, assolutamente. Vabbè, intanto Alfano ne ha sbagliate, le sbaglia tutte. Tutte. Siamo stati tre giorni appresso a quelli là, questi dall'Iraq e dall'Afghanistan che erano venuti con i mitra che avevano postato tutte là il Colosseo. Liberati. Il mitra era di plastica. Adesso ci arriviamo, perché anche a quello c'è da dire qualcosa. Prima però vi faccio sentire Renzi. Ieri è andato a porta, stia attenta Flavia Perina, perché Renzi in questi mesi la uscirà anche dal microonde. Se apre. No, già mi è uscito stamattina mentre facevo il caffè. È uscito dalla caffettiera insieme prima del caffè. Sì, perché adesso c'è da difendere il referendum. E allora Renzi però ha detto questo. Secondo me bella questa frase di Renzi. Io non ho giurato sul Vangelo. Oggi è giorno di festa, punto. Allora... Ci sono persone che stanotte non hanno dormito. Oggi rispetterei questa gioia, prenderei atto di un dissenso che esiste. Io mi carico la mia parte di responsabilità. Però vabbè, oggi, non è questa la celebrazione. No, però ha detto ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Infatti Vincino che fa? È come dire, per questo l'ha cambiata, cambia la Costituzione, perché non va... la cambia per giurare meglio, per farla. No, perché l'ha rovinata quella là, con la mano sulla Costituzione, via. Eccolo, tutto da cambiare. Eccolo qua, giuro sulla Costituzione. Ma lui il suo problema è vero. Aspetta. Ovviamente quando faccio politica la faccio da laico. Cioè io ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Vespa, bisogna anche avere il coraggio di dire che... La Vespa. Se Vespa, una cosa Vespa giusta, non so, Flavia Perina, Vespa subito, Cardinal Vespa si sarà un attimo... Comunque è una bella frase, adesso obiettivamente. No, ma è bellissima, con infatti. Con tutte le critiche a Renzi, erano 50, 60 anni, 70 anni che aspettavamo un premier che dicesse ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo. Ma infatti in Italia ci sono state delle grandi confusioni. Ma infatti, guarda, qua si scherza sempre, insomma, sono le 6:40, ma questa è una frase, devo dire, bravo Renzi. Oh, ma che cavolo? Da tre giorni. Vabbè, certo. Dice vado da Vespa e glielo dico in faccia al cardinale Vespa, io ho giurato sulla Costituzione, e gliel'ha detto però, una bella roba, Vincino. Diciamo, è una frase che è una frase che è resa possibile anche dal fatto che c'è un Papa che dice io ho giurato sul Vangelo e non sulla Costituzione. Questo Papa si sta molto facendo gli affari suoi, a differenza anche in questo caso di precedenti pontificati. Non mi sembra molto interferente con la garantina italiana. Non è che vada solo. Però vedi, manda avanti gli altri, Vincino, manda avanti gli altri, manda i vescovi. Galantino è nuovo del Papa, non è che è interferito pesantemente. Sì, Cioè, non, come dire, guardiamola per come stanno le cose. Sì, però se uno poi va a vedere oggi l'Avvenire, va a vedere il giornale di Aria Cattolica, non mi sembra che ci sia il clima, non so, del divorzio della 194. Brava, guarda che a me non ne fa nessuno. A me ha colpito, caro Vincino, ieri Avvenire in prima pagina aveva Francesco D'Agostino, che faceva un editoriale, a dire, per esempio, che questa storia dell'obiezione di coscienza dei sindaci è D'Agostino, D'Agostino non l'ho scritto così, ma è una minchiata, è una cazzata, dai, voglio dire, quindi Avvenire non è che ha preso di petto a dire adesso, ha anche detto che il referendum è sbagliato, cioè non è la via per contrastare, quindi la Chiesa non è che si è messa proprio di traverso, come, non lo so, no Vincino, non ti abbiamo convinto. No, è svenuto, cioè, è svenuto, sì, no, no, vabbè, ma non, no, il problema è che non l'ho letto la verità. Mi sei fregato stamattina. No, era ieri. No. Insomma, ma anche oggi, anche domani, non è la mia lettura preferita. Allievo Vincino, ti ho beccato. Poche vignette sull'Avvenire. Si sono poche vignette, allora sì. Però è il tuo momento, caro Vincino, l'attendevo, sono le 6:44 minuti. Flavia Perina deve sapere che Vincino ha un amore viscerale per il Movimento 5 Stelle. Ora devo dire che un giorno ha confessato che quasi quasi voterà Virginia Raggi, perché un giorno l'hai detto, abbiamo la registrazione, Però è il tuo momento. Dopo Nogarin a Livorno, ora anche Pizzarotti a Parma è indagato. Caro Vincino, hai 20 secondi, di quello che vuoi. Assolutamente, che come dico, diffidate dei sindaci che non hanno abuso d'ufficio. Sono i sindaci che non fanno niente. Assolutamente. Cioè, quindi stai difendendo il 5 Stelle? No, sto difendendo Pizzarotti, la cosa. Secondo me l'abuso. Ma come dire? E poi questa cosa qua che è un. Cioè, l'abuso d'ufficio l'hanno avuto tutti. Che ne so, Rutelli ne ha avuti centinaia, Orlando tutti i sindaci minimamente decenti. Ma stai difendendo il 5 Stelle? Già la seconda volta. Non sto difendendo il 5 Stelle per la seconda volta. Sto dicendo che come dire. Ma Pizzarotti nel 5 Stelle. Ma io non è che sono contro tutti quelli. Come dire, sono deficienti, e sì, ma non è che di per sé. Poi io faccio sono un analista politico anche io, in fondo, come dire, ho una mia. Fermati. Di base hai già detto comunque il tuo pensiero è abbastanza compiuto. Però facciamo così: ripartiamo da questo, dopo il traffico, perché qui tra politica e magistratura, visto che abbiamo anche Flavia Perina che è stata in Parlamento e ne ha viste di politici fare barricate contro l'avanzata dei magistrati, qualcosa ci dirà tra poco. E vai col traffico! Dille alla Cirinnà che le deve dar conto ai cittadini, non deve fare di testa sua. E i cittadini si devono svegliare, perché il popolo è sovrano. Ciao Alessandro, sei sempre il numero uno. Alino, ma ti rendi conto? C'è la gente che muore di fame, dorme in macchina, perde il lavoro perché le aziende chiudono. E questi cosa pensano? Alle unioni gay, le unioni civili. Non c'è più religione, ma davvero, Da noi in Brianza si dice che la Boschi sarebbe un Paolotti impostore. And now, Alessandro Milan and Vincino, l'antigrillino. Eccolo qua, no, ma lui è anarchico, non è antigrillino, è anarchico, che è una cosa diversa. C'è ancora, Perina, c'è ancora l'anarchia, pensi un po', cioè Vincino incarna l'anarchia. È importante, insomma, una democrazia serve anche, l'anarchia, anche questo, servono anche i Vincino. Soprattutto tra i vignettisti, meglio sì, vignettisti esatto. Anarchici. No, devo dire però, questi che ancora ci scrivono, ma ci sono i problemi, le tasse, gente che muore di fame e si occupano, ma basta, ma che argomentazione è? Ma non è che un Parlamento, un governo può fare una cosa alla volta? Cioè se si occupa delle unioni civili, il Parlamento non può risolvere il problema delle tasse? Anche perché se ne è occupato in 5 minuti, hanno messo il voto di fiducia e 2 giorni la storia si è chiusa. Infatti, non è che stato perso. No, ma è proprio l'argomentazione, lo devo dire con affetto, l'ascoltatore più povera che ci sia, no? Quella, si occupano di questo e non di altro, ma se occupassero di 10 cose alla volta contemporaneamente, cioè c'è uno Stato, c'è un governo. Vabbè, insomma, ho fatto la mia intemerata uscita. rientro in me, che è venerdì 13. Rientro in me. Flavia Perina, allora, i magistrati sono all'attacco. Grande, vabbè, no, toglimi le campane a morto. I magistrati sono ancora all'attacco dopo 30 anni. Che si fa? Sì, vabbè, ma questo è una cosa normale, perché i magistrati fanno il lavoro loro. Nel caso di Pizzarotti c'era la denuncia di un esponente del PD, e quelli che devono fare? Indagano, aprono un fascicolo, fanno l'avviso di garanzia. È cambiato molto l'atteggiamento della politica. Adesso complotto non ha più il coraggio di dirlo quasi nessuno, perché insomma dopo quello che è avvenuto fuori dire complotto è un po' complicato. C'è un po' una sensazione che in alcuni casi si agisca così, con qualche intento politico, però la storia del complotto è finita, mi sembra, è diverso da prima. Sì, un po' è finita. Ti faccio sentire una politica paurosa, assolutamente, che non ha il coraggio di fare la riforma della magistratura, che ha proprio il terrore in tutta Italia, assolutamente. Non tu immaginati, c'è una politica che per dire, noi abbiamo il referendum nell'80 qualche cosa sulla responsabilità dei magistrati, non mica l'abbiamo poi in realtà applicata. Assolutamente no, una politica terrorizzata in questo momento. Per esempio, come ci ha raccontato varie volte, Vincini è stato due volte in carcere. Pensa se quella volta... Tutti e due hanno sbagliato tutto completamente. La prima volta vendevo un giornale in piazza, arrivano i carabinieri, mi prendono, mi picchiano, mi portano in caserma. E poi, come dire, quello che mi ha dato i pugni in faccia, io avevo 30 giorni alla mascella, lui aveva 5 giorni alla mano, ho perso io 2 anni, ma stiamo scherzando. Vabbè, questa è la... E questa è la vicenda. Ma pensa se si fosse presentato a quel punto, dopo l'arresto, ai tuoi danni, come magistrato da Vigo. Così, davanti. Signor Vincino. Ma avrebbe fatto tutti quelli che hanno sbagliato, tutti quelli del caso torto, hanno tutti fatto carriera completamente. Ecco. Ma non è che noi abbiamo bisogno di una riforma seria sulla magistratura in Italia. E come sarebbe questa riforma? Dai, facciala tu. Come sarebbe? Divisione delle carriere, per esempio, totalmente. Cioè il fatto che l'accusa è l'avvocato dello Stato, non è lo stesso sindacato di quello che decide, non sono la stessa associazione, non si vedono la sera a magistratura. Nella situazione nazionale, un'altra parte, sono due cose diverse completamente. Diverse. Come in America, come in Inghilterra. Divisione come delle carriere. E uno o fa il magistrato o fa il giudice. O fa l'accusa. O fa l'accusa. No, qua invece fanno un giorno l'accusa, poi due anni dopo passano a fare invece il giudicante, poi 2 anni dopo ritornano a fare l'accusa. Così per dire? Cambiare. Effettivamente la noia. Ogni tanto uno nella vita. Peraltro, aspetta, in Inghilterra, in America, se uno viene, se lo Stato fa metodo, ti assolve, basta, l'accusa, la cosa non può più fare niente. In Italia no, si appellano sempre, tanto a loro che gli costa. E per questo uno dei motivi che i processi durano un'eternità. Vediamo, sottosegretario alla giustizia, vi faccio sentire Virginia Raggi intanto. Virginia Raggi dice appunto non bisogna usare... Che sei ti emozioni, la voti Vincino? No, vabbè, no. Insomma, dopo chiedo a Flavia Perina chi vota. Adesso voglio sapere, dopo Virginia Raggi, voglio sapere da Flavia Perina chi vota, si prepari. Che gli avvisi di garanzia non vengano utilizzati come dei manganelli, perché ripeto, molto differente è il caso di diffamazione rispetto al caso di peculato, rispetto al caso di truffa, rispetto al caso di abuso d'ufficio. Vabbè, insomma, distingue. Virginia Raggi dice abbastanza un'ovvietà, ma è la prima volta che il Movimento 5 Stelle lo dice. Esatto, niente manganelli. L'altro ieri era tutto uguale. Vabbè, ma Flavia Perina, scusa, è una stupidaggine, non è vero. Un avviso di garanzia è la stessa cosa se è un caso di diffamazione, se uno è innocente in caso di diffamazione, di corruzione, di cose, è innocente, stop. Per cui l'avviso di garanzia è uguale, non è che siccome... Cioè, non è che il reato più grave è reato più grave, allora no, non esiste affatto. Se io sono innocente in qualsiasi reato. Bravo, il garantista Vincino. Però voglio sapere per chi vota Flavia Perina a Roma, dai. Ma avanti. No, che non te lo dicono, non ho ancora deciso. Siamo ancora, mancano ancora 20 giorni. Vabbè, allora ti chiamo il 4 giugno. Ti chiamo il 4 giugno. Il 4 giugno dovrò aver deciso per forza. Qua a Roma è molto complicato decidere di votare, ammetterete anche voi. Vabbè, ma almeno dai, da una parte, dall'altra. Giacchetti, chi è il più bello? No, il più bello? Giacchetti lo conosco personalmente, è una bravissima persona ed è una persona seria. È uno di quelli che si sono seduti a tavola e si sono alzati puliti, perché poi, sai, dire sono pulito quando non ti sei mai seduto a tavola è una cosa molto, molto facile, sì, perché quindi Giachetti è bravo, è onesto, è già una buona cosa. Ecco, oh, è già una buona cosa, un punto di partenza. E a destra che succede? A destra che succede? Marchini è una buona candidatura, secondo me, nel senso che penso che Berlusconi abbia fatto un'operazione molto abile. E la Meloni? La Meloni secondo me ha sbagliato in questa campagna elettorale ad associarsi a Salvini. Salvini a Roma è imbotabile. E adesso la Meloni è una politica emergente, brava e tutto, ma ha fatto un grande errore strategico ad associarsi appunto ad una persona invotabile, secondo me poco votabile, soprattutto a Roma. Cioè, se ne ha dette di ogni, sono vent'anni che abbiamo sentito Roma ladrona, Roma qua, Roma là, adesso dovremmo votare per... No, ma tra l'altro con il sottotema di un Salvini che cerca a Roma una sorta di campo nazionale per dire ecco, il nuovo leader del centrodestra sono io. Certo, e dai, No, così è troppo. Vincino, ti vorrei lasciare dicendoti che la pensi come Ettore Rosato, che sul Messaggero dice che l'abuso d'ufficio è un qualcosa che insomma va un po' riformato. Non volevo lasciarti. Che sì, possiamo fare. Ma so che questo ti abbatte. No, ma è la stessa cosa, ce la pensi voti come Casa Pound, come dire, una stupidaggine, di ogni genere. No, vabbè, non volevo lasciarti con questo dolore, però il dato di fatto è questo. Ricordate che è venerdì 13, vi devo salutare, Vincino, e grazie anche a Flavia Perina, le campane a morto suonano in alcune parrocchie d'Italia. E vi lasciamo così. Ricordati, Milan, è venerdì. È ora di liberarsi. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza signori, che è venerdì, anche se è venerdì 13, ebbene sì, venerdì 13, non importa, è comunque venerdì. Ed è il giorno in cui si conclude la 158esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Avanti, la 159esima alle porte, ma fino al referendum c'è poco da aspettare se non contare, e poi vedremo. Allora, cari ascoltatori, siamo qui. Andiamo subito a tuffarci nella lettura dei giornali col nostro padre Livio Fanzaga che ci aiuta. Non ma c'è sì, niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E in questi giorni padre Livio magari non sottoscriverebbe questa sua stessa frase. Comunque, venerdì 13 maggio, diciamolo forte senza paura delle superstizioni. Il Sole 24 Ore, eccolo qua l'apertura. L'Europa boccia la Cina, non è economia di mercato. Il Parlamento europeo vota la risoluzione 546 sì e 28 no, ora deciderà l'esecutivo europeo. Ha votato dunque contro la concessione alla Cina dello status di economia di mercato. Questo l'Unione Europea, il Parlamento europeo. Venendo all'Italia, le aperture dei giornali sono di due tipi. Per Repubblica, donne svolta nella Chiesa, il Papa apre al diaconato. Così anche sulla Stampa, il Papa sia le donne diacono, governo, nuove sfide sui diritti. Per Libero, arrivano le donne prete, la rivoluzione di Francesco. Mentre per quel che riguarda ancora le unioni civili, Renzi difende le unioni civili, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, così anche il Giorno, Renzi, io premier laico. Mentre il Fatto Quotidiano insiste, Sala è un candidato abusivo, impresentabile, questo è il titolo di prima pagina. Per Avvenire torna la vicenda del Papa, alle donne più responsabilità, il titolo è un po' più sfumato. Attacco invece al Movimento 5 Stelle, sia per l'unità, stelle cadenti, questo è il titolo di prima pagina, e il Messaggero, il caso giustizia scuote il Movimento 5 Stelle. Indagato, sapete, anche il sindaco di Parma, Pizzarotti, ma voglio partire proprio dalle donne diacono. Allora, dovete leggere Carlo Marroni per capire, sul Sole 24 Ore a pagina 8, l'annuncio, anche se prudente nei toni, nelle modalità, è destinato a segnare una strada nuova. Ieri Papa Francesco ha detto che istituirà una commissione di studio sul diaconato femminile,